Siamo con Andrea Groplero, regista del film Comunismo Futuro. Benvenuto, Andrea. Ce Bene, grazie, grazie Federico. lo presenti il film? Sì, guarda, il film, mi piace chiamarlo una bifografia. Detto questo, parlando con Bifo, 2 anni fa, in vista del centenario della rivoluzione d'ottobre e di un evento per noi altrettanto, forse anche più importante, dei 40 anni del 77, abbiamo cercato di fare un film. Intanto ci siamo resi conto di una cosa, che la parola comunismo non potevamo più pronunciarla dall'89. E per noi invece questa è una parola di libertà che volevamo riportare nei nostri vocabolari, nelle nostre vite, nelle nostre lotte. E quindi abbiamo fatto questo film. Non è un film storico sulla rivoluzione, per quanto abbiamo indagato sulla rivoluzione d'ottobre, con gli occhi del punk, con gli occhi del 77, con gli occhi, diciamo, delle nuove tecnologie. E quindi abbiamo chiesto aiuto agli artisti, ai poeti e agli scienziati per indagare nel secolo che credevano nel futuro dal punto di vista del non futuro, del no future. Questo è un po' il tema. In ambito artistico e non solo, quali sono stati i vostri referenti? Piano dei materiali abbiamo molte cose, insomma, Majakovskij naturalmente moltissimo, molti dadaisti, surrealisti, i futuristi russi, insomma direi un po' tutte le correnti artistiche del Novecento che hanno creduto in fondo nella, come dire, nella positività del comunismo. Però il comunismo per noi non è una cosa che riguarda il passato, è una cosa che riguarda per l'appunto il futuro, ma il futuro nell'accezione majakovskiana, cioè dobbiamo strappare al futuro i nostri giorni migliori. Come lo hai strutturato il film? Ma i film sono, insomma, è una passeggiata del secolo di Bifo attraverso materiali di repertorio che vengono, come dire, in gran parte dall'archivio storico Operaio Democratico, dell'Istituto Luce, della Cineteca di Bologna, con Movies e con un aiuto anche importante di Adbusters e una ricerca importante al Mediascape. Quindi diciamo, abbiamo mescolato molto materiali che vengono dagli archivi storici al Mediascape. Qual è la declinazione futura del comunismo, vista la vostra intenzione di partenza? Ma guarda, personalmente sono convinto che di lavoro ce ne sia sempre meno bisogno. Larry Page, il capo assoluto della macchina Google, sostiene in un'intervista del 2017, che Google stesso possiede i dispositivi per eliminare il 45% del lavoro umano dalla faccia della terra. Non li mettono fuori per il semplice motivo che non si fidano dei governi planetari, in quanto insieme al 45% verrebbe eliminato, del lavoro verrebbe eliminato anche il 45% dell'umanità. Quindi noi siamo di fronte a una, come dire, da una parte una grande possibilità, cioè quella che noi amici dell'automa, che il movimento operaio per la prima volta nella sua storia si trova ad avere come alleato l'automa, il dispositivo tecnologico per liberarsi dal lavoro e che al contempo questa cosa però produce anche un, come dire, un pericolo gigantesco, cioè il fatto che insieme al lavoro venga distrutta larga parte dell'umanità. L'unico modo che abbiamo per salvarci tutti insieme è uscire dal capitalismo, non perché uscire dal capitalismo, sai, lo dicono oggi anche i Tories, cioè quelli che il capitalismo l'hanno inventato, e pensano di uscirne con i beni comuni, che in fondo sono semplicemente un privato condiviso. Noi pensiamo invece che si tratti, di uscirne tutti insieme con qualcosa che non sia privativo, ma per l'appunto che sia comune davvero, cioè comunista. Ecco, il problema, uno dei problemi centrali, forse il problema centrale insieme alla diminuzione della necessità del lavoro, è quello della redistribuzione dei beni. Anche lì, io ho partecipato all'occupazione del Valle per 3 anni e lì abbiamo avviato un laboratorio sui beni comuni di grande importanza, di grande rilevanza, sia nazionale che non solo, che internazionale. Il tema, però, quindi i beni comuni hanno sicuramente avuto un'importanza straordinaria nel permetterci di ripensare, in fondo, alla parola comunismo. Per l'appunto dal 1989, la caduta dei muri, non potevamo più pronunciare. Però se noi andiamo a leggere la Ahlström e vediamo che, come dire, nell'esempio classico dei campi di riso nepalesi, lei dice che il fiume, certo, è una risorsa comune, dopodiché noi facciamo i canali di irrigazione che irrigano i campi di riso. Bene, quello è il bene comune. Ma se c'è un campo che è disposto a nord e produce il 25% in meno di un campo esposto al sud, quel riso in più come viene redistribuito secondo i beni comuni? Ecco, io credo che il tema della ricchezza oggi sia uno dei temi centrali, insieme al tema della liberazione necessaria dal lavoro salariato. Andrea, che forma distributiva hai pensato per il tuo film? Guarda, questo film non l'ha prodotto nessuno, non lo distribuisce nessuno, anzi ha avuto, diciamo, anche è stato osteggiato apertamente dai festival nazionali più importanti, però, diciamo, i luoghi in cui viene distribuito globalmente nel mondo sono o grandi musei d'arte contemporanea, l'ho fatto la settimana scorsa a Roma, Madrid, alla Reina Sofia, con insomma, un po' tutta l'intellettualità che ruota attorno a Podemos, prima ancora al MACBA di Barcellona, prima ancora ai FLACS a New York, abbiamo cominciato il 7 novembre con l'ICA di Londra. Insomma, diciamo, sono o musei d'arte contemporanea o luoghi di attivismo, università, cioè luoghi che non sono cinema, ma che hanno come dire, una programmazione cinematografica Sì, di sì. tutto Senti, rispetto. e per saperne di più, per seguire anche le sue tappe, ci sono dei riferimenti web? Sì, dunque c'è comunismofuturo.net, che è un piccolo blog che teniamo in cui cerchiamo di aggiornarlo il più possibile con i tempi e insomma, come possiamo, in relazione alle date nuove, alle proiezioni, ecco. Bene, allora ricordiamo Comunismo Futuro. Andrea, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille Federico, a presto, ciao a tutti, ciao.